All'inizio del Novecento, in città e nell'Interland, nacquero molte cooperative, sia di consumo, per calmierare i prezzi dei beni di prima necessità, sia edili, per far fronte al problema della casa. Lavoratori, operai, muratori, gente comune si organizzarono per cercare delle soluzioni ai problemi della maggior parte della popolazione. A Baggio nel 1904 fondarono la cooperativa di consumo e nel 1907 la cooperativa L'Edile di Baggio, oggi conosciuta come cooperativa Corridoni. E questa cooperativa costruisce le prime case in via Roane ed erano tutte in quella zona, via Roane, via Quinto Romano e via Scanini. E quella era la zona operaia. La cooperativa di consumo, che era più o meno Piazza Anita Garibaldi. Perché era importante la cooperativa? Perché la cooperativa vendeva i generi di prima necessità. Vendeva il formaggio, vendeva le patate, vendeva il pane, vendeva il latte, c'era il salumiere. E c'erano questi uomini che si trovavano alla sera dopo il lavoro e andavano in cooperativa. Andavano in cooperativa e tanto bevevano un bicchiere di vino. Parlavano di quello che succedeva nelle fabbriche, quindi svolgevano attività politica praticamente. E qui parlo di prima del fascismo, negli anni 20, negli anni 10. E la cooperativa faceva un sacco di cose. Avevano, per esempio, in via Anselmo da Baggio, angolo via Quinto Romano, avevano creato il recreatorio laico, l'oratorio socialista. Organizzavano anche delle gite, andavano in montagna, andavano a fare le pedalate, si faceva la spesa, si stava insieme. La vita, la vita quotidiana ruotava intorno alla cooperativa. I fascisti organizzavano sistematicamente pestaggi, persecuzioni, incendi alle cooperative e alle sedi delle organizzazioni dei lavoratori. Gli abitanti di Baggio avevano stabilito dei turni di guardia per difendere la loro cooperativa. Avevano anche installato una sirena sul tetto per dare l'allarme in caso di aggressione squadrista e in due circostanze servì per sventare l'attacco. All'inizio di aprile del 1924, due ufficiali e due carabinieri dettero l'ordine di smontare la sirena perché l'installazione non era stata autorizzata. Il 7 aprile del 1924, alle 22, arrivò un camion con 40 fascisti, alcuni della zona, altri di fuori, che devastarono la cooperativa. Stessa sorte toccò al Teatro del Popolo di Via Cusago e alla cooperativa di Assiano. Quando è bruciata la cooperativa, noi abbiamo visto dalla finestra. Sono anche entrati nel nostro cortile su un camion cantando Bandiera Nera. Volevano provocare per farci uscire. Poi, dopo aver cantato gli inni fascisti, sono andati verso la cooperativa. Abbiamo visto il fuoco dell'incendio, hanno bruciato quello che non hanno potuto portare via. Hanno saccheggiato posate, riso, salami, col bastone hanno rotto i piatti. Hanno portato via il vino imbottigliato e quello delle botti l'hanno fatto scorrere. Hanno rotto le casse, bruciato le panche. I salumi e la carne rubati furono consegnati a un fascista proprietario di una trattoria di via Ceriani, dove per alcuni giorni gli squadristi si ritrovarono a festeggiare. Molti cittadini baggesi da quel giorno iniziarono a disertare in massa quel locale, che poco dopo chiuse per fallimento. Le informazioni sono tratte dal lavoro di Giuliana Cislaghi, Baggio antifascista.